rivista anarchica di cultura e controinformazione, compie 40 anni. Festeggiala insieme a noi domenica 4 dicembre alle Officine Babilonia di Cosenza. Gli anarchici del Cosentino ti aspettano alle ore 13 per il pranzo sociale di autofinanziamento, mentre alle ore 18 tavola rotonda 40 anni per cominciare con Paolo Pinzi di A Rivista Anarchica e alle ore 21 concerto con i suonatori libertari calabresi. Radio Transizione di Pace vi ricordo che seguirà l'avvenimento.